GR24, il sole 24 ore. La sanità a Monti precisa, la sostenibilità non significa privatizzare. Ricerche difficili a Taranto per l'operaio disperso, oggi il giorno della verità per l'Ilva. Notav arresti in Valsusa, nel mirino il centro sociale, cuore della protesta. Spread in calo, mai così bene da marzo, per i bot asta con tassi al ribasso. Buongiorno dalla redazione, buona giornata da Anna Migliorati. E dunque, come dicevamo, è fiato sospeso per l'Ilva. Alle 14 sono attese al Senato le parole del ministro Clini. Poi ci sarà l'incontro con le parti sociali e a Taranto il fiato sospeso è anche per le ricerche dell'operaio dopo il tornado di ieri, disperso dopo il tornado di ieri. Ne parliamo però tra poco, perché prima, come sentivate dai titoli, le parole proprio poco fa del premier Mario Monti ha chiarito quel che aveva detto nei giorni scorsi a proposito del Servizio Sanitario Nazionale. Non pensiamo alla privatizzazione, ha detto in sostanza Monti, ma sentiamolo. Affermare la necessità di rendere il servizio sanitario pienamente sostenibile non ha nulla, proprio nulla, a che vedere con la logica della privatizzazione. L'eccellenza sta anche nel pubblico e non sempre il privato è immune dalle logiche improprie del condizionamento di scelte non sorrette da assoluta trasparenza e competenza. Queste dunque le parole del premier Monti. Ora, come dicevamo però, l'Ilva, a Roma c'è Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. E a Taranto Raffaella Calandra, buongiorno anche a te. Buongiorno Anna. E allora, cominciamo da Roma però. Vincenzo, che succede oggi nei palazzi romani? Sì, succede che l'esecutivo mira a risolvere nel giro di 24-48 ore la questione Ilva, puntando ad un compromesso tra le esigenze in campo, la tutela della salute di lavoratori ed abitanti di Taranto, il diritto al lavoro degli operai dello stabilimento siderurgico, gli interessi dell'azienda e del comparto nazionale che, ricordiamo, detiene una buona fetta del mercato internazionale. Le prime novità dovrebbero arrivare allora dal Senato, dove tra meno di un'ora riferirà il ministro dell'Ambiente Clini, alle 15 poi la riunione a Palazzo Chigi con tutti i soggetti interessati, governo, azienda, sindacati e Confindustria. Si andrebbe dunque verso un decreto legge da varare domani in Consiglio dei Ministri. Sarà un provvedimento teso a rafforzare l'autorizzazione integrata ambientale con valore legislativo e a consentire all'Ilva di riprendere subito l'attività. E da Roma è tutto. Grazie. A Taranto, dicevamo, ci sono le ricerche dell'operaio disperso, ma anche l'attesa appunto per quel che succederà a Roma. Raffaella Calandra. Sì Anna, qui nel day after del porto di Taranto, dove mi trovo in questo istante, la tensione ed il dolore si mescolano come le lamiere accartocciate che sono ancora dappertutto. Qui davanti ai sigilli che chiudono l'area dove si cerca l'operaio disperso, Francesco Zaccaria, 29 anni, sbalzato via dalla tromba d'aria di ieri, i suoi colleghi si interrogano sulla sicurezza della zona, confessano la loro paura a tornare a lavorare a 50 metri d'altezza, con visto quello che è successo anche al loro collega ieri, e denunciano anche la mancanza, diciamo, di alcuni elementi di sicurezza che a loro dire non sarebbero, diciamo, rispettati fino in fondo. E così alcuni gruisti esprimono tutta quanta la loro rabbia e la loro preoccupazione, come ci hanno detto. Sentiamo. È pericoloso, no? Poi la sicurezza te la fai tu, che sei il conduttore della macchina. Secondo lei le condizioni di sicurezza qui ci sono tutte? Proprio fino alla fine no. Perché ultimamente si sballavano gli anemometri delle macchine. È un rilevatore di velocità del vento. Sono bypassati per non farli scattare l'allarme e quindi si bloccano, tu non vedi più niente del vento. Io e la macchina mi trovavo nel capannone qua, che è stato divelto tutto completamente. Ho cominciato a vedere le lamiere che iniziavano a volare e le gru che incominciavano a girare vorticosamente su se stesse. Poi siamo usciti dall'ufficio e praticamente intorno a noi non c'era più niente. C'era solamente gente che gridava, piena di sangue in faccia. Ci si interroga sul perché Zaccaria non fosse riuscito a scendere dalla gru, se qualcuno gli avesse dato un compito in particolare da svolgere. La sua macchina, la sua gru, una di quelle più vecchie, aveva circa 30 anni quella macchina, era in manutenzione, e queste sono tutte domande a cui anche gli stessi colleghi cercano di dare una risposta mentre proseguono le ricerche, anche se a fatica si sta cercando nel mare di recuperare l'operaio ancora disperso. diverso. Dunque, tra il dolore per la tromba d'aria di ieri, Taranto aspetta sospesa anche l'esito del vertice decisivo di questo pomeriggio a Roma sul futuro dell'Ilva e quindi anche sul futuro stesso dell'intera città. Anna. E grazie a Raffaella Calandra, naturalmente aggiornamenti da Roma e da Taranto nelle prossime edizioni. Intanto, ancora per il maltempo, a Roma torna a salire il Tevere, la soglia delle banchine è stata superata questa notte alle 11.30, il fiume ha raggiunto nella stazione di Ripetta un'altezza di 8,9 metri, questa sera si prevedono i 10 metri. A Torino, ma anche in altre città italiane, sono scattate questa mattina le manette per in ottave le proteste in Val di Susa, eseguite 19 misure cautelari tra arresti, obbligo di firma o di dimora. Nel mirino della Digos, esponenti legati all'area anarchica e a centri sociali vicini al movimento, sono ritenuti responsabili dell'aggressione a una troupe del Corriere della Sera e dell'irruzione in uno studio di ingegneri. E intanto un centinaio di carabinieri hanno sequestrato l'area del presidio a Chiomonte e allora Anna Marino ha raggiunto il sindaco di Chiomonte, Pinard. Le forze dell'ordine sono intervenute, uno per asportare un prefabbricato in legno lungo la strada provinciale, poteva essere di impedimento alla circolazione, mentre per quanto mi risulta l'altro fabbricato, quello più grosso, stanno mettendo in New Jersey con la rete sopra. A Chiomonte per adesso non ci sono dei disordini. Questa presidio Notav è quello stato sistemato già da prima? Sì, quello c'era già da prima, è proprio localizzato dove c'era il campeggio Notav. Ecco, com'è adesso la situazione a Chiomonte? C'è ancora tensione? C'è sempre la tensione di prima? Sono state trovate due persone all'interno di questo presidio abusivo che le forze dell'ordine stanno cintando. Per il resto è ancora abbastanza tranquillo. Faccio notare che già solo l'anno scorso una situazione come questa avrebbe sicuramente, con il tantan dei telefonini e del web, avrebbe sicuramente fatto intervenire numerose persone. Oggi non c'è nessuno. E per quanto riguarda, diciamo, la stagione alle porte, quella turistica, avete qualche timore? Il fatto stesso che comunque hanno deciso prefettura e questura di intervenire prima dell'inizio della stagione invernale è già un buon segnale. Torniamo a guardare anche i mercati, una buona giornata per lo spread, Deborah Rosciani. Sì, anche per i mercati azionari, per la verità, perché dopo essere partiti bene stanno continuando ad allungare il passo. Milano addirittura in questo momento segna più 2% sul FTSE MIB, in rialzo di un punto Parigi, Francoforte più 0,7%, Londra più 0,90%. Il mercato intanto è incoraggiato da alcune notizie che sono arrivate ieri sera dagli Stati Uniti, dove a quanto pare entro Natale si potrebbe trovare un accordo per evitare il baratro fiscale, il fiscal cliff, un accordo chiaramente fra le componenti del Congresso, fra Partito Repubblicano e Democratici. Poi ieri la Commissione europea ha approvato i piani di ristrutturazione delle banche spagnole, verranno erogati finanziamenti per 37 miliardi di euro, per cui oggi le notizie per galvanizzare la borsa ci sono. E tutto questo si sta trasferendo anche sul mercato obbligazionario, perché come dicevate lo spread questa mattina viaggia su livelli che intanto non si vedevano da marzo scorso, siamo sotto i 310 punti base, ma soprattutto il Tesoro italiano è riuscito a collocare con rendimenti piuttosto bassi ai minimi da 2 anni i BTP previsti per questa mattina. Quello a 10 anni è stato collocato e richiesto dal mercato al 4,45% come tasso di rendimento al minimo da novembre 2010. Il BTP a 5 anni ha raggiunto invece rendimenti minimi da ottobre 2010 al 3,23%. Per cui direi una buona notizia, speriamo che oggi verrà confermata anche da Wall Street, dove attendiamo il dato sulle prodotti interno lordo del terzo trimestre. Abbiamo la revisione intermedia, per ora è tutto. Grazie anche Deborah Rosciani. E oggi intanto si torna a parlare di legge di stabilità tra le proteste dei comuni ma anche delle regioni. Allora sentiamo anche Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno Anna. Regioni e comuni sul piede di guerra contro la legge di stabilità qui a Via Parigi, appena terminata la conferenza straordinaria delle regioni convocata dal presidente Vasco Errani, i governatori chiedono un incontro urgente con il premier Monti. In particolare a preoccupare sono le minori risorse che dovrebbero arrivare per finanziare sanità, trasporto pubblico locale e welfare, particolarmente critico il fronte sanità. Le regioni chiedono che il Fondo Sanitario Nazionale 2013 torni ai livelli del 2012, considerando inaccettabile il taglio di 1 miliardo di euro previsto dalla legge di stabilità. In caso contrario, dice il presidente Errani, le regioni non saranno più in grado di garantire il servizio sanitario ai cittadini, sarà lo Stato a doversi prendere la responsabilità, sarà lo Stato dunque, dice Errani, a dover rispondere di questi servizi. E a protestare sono anche i comuni che hanno riunito di stamattina l'ufficio di presidenza, in particolare l'ANCI chiede di alleggerire i vincoli del patto di stabilità e chiede anche che l'IMU venga restituita per intero ai municipi con un emendamento alla legge di stabilità. In caso contrario scatterebbero forme di protesta estreme, l'ANCI potrebbe arrivare a decidere le dimissioni in massa dei sindaci. Da Roma è tutto. E grazie anche ad Alessandra Schepisi. Altra protesta in corso nelle città, fermi oggi i mezzi pubblici. Allora sentiamo come sta andando. L'agitazione andrà avanti fino alle 15, quando scatterà la fascia di garanzia fino alle 18, ma la mattina è stata abbastanza tranquilla a Milano, dove non si sono verificati grossi disagi come lo scorso sciopero, nonostante la concomitanza con una manifestazione studentesca ed il rischio piogge. Secondo la polizia locale non si sono verificati assembramenti alle fermate dei mezzi pubblici, che circolano anche se con qualche ritardo, o nelle metropolitane, peraltro quasi regolari, eccetera. Fatta per alcuni tratti della linea gialla, area C e divieti antismog sospesi per tutto il giorno, ma traffico nella norma. A Roma i dipendenti dell'ATAC non hanno aderito allo sciopero, quindi mezzi regolari, mentre a Genova il personale viaggiante della MT si asterrà fino alle 13.35. Tutti gli altri lavoratori incroceranno le braccia per l'intero turno. Alle 21 poi partirà lo stop del trasporto ferroviario indetto sempre dal CUB per 24 ore. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torniamo ad aprire la pagina sulle primarie del Partito Democratico, perché ieri sera c'è stato il confronto di TV, meno due al ballottaggio per Bersani e Renzi. Il punto di Stefano Folli. Forse è superfluo cercare a tutti i costi di scoprire chi ha vinto e chi ha perso nel confronto fra Bersani e Renzi. Ognuno dà a questa domanda la risposta che crede. Certo, Renzi è apparso più brillante e innovativo anche nel modo di comunicare, sicuramente più proteso al futuro. Bersani assai più pacato, anche troppo verrebbe da dire, preoccupato di apparire rassicurante e responsabile. Diciamo che lo è stato, ma in definitiva i due sono fatti per intendersi prima o poi. Appartengono allo stesso centrosinistra, non sono nemici, ma semplici avversari dentro una cornice comune. Renzi è stato più efficace nel tratteggiare qualcosa che assomiglia a una visione del paese e questa caratteristica servirà non poco al PD di domani, il giorno dopo le primarie. Un PD che spesso è ripiegato su se stesso, quasi timoroso di guardare avanti con un certo coraggio. Bersani e Renzi avranno tutto l'interesse a trovare fra di loro un accordo per gestire il centro-sinistra su basi completamente nuove e magari anche domani il governo del paese, specie se il risultato di domenica confermerà più o meno quello del primo turno. Confronto che però è tutt'altro che concluso, perché oggi sono tornati a parlare entrambi, sia Renzi che Bersani, proprio in questi minuti, un confronto questa volta a distanza. Elisabetta Fiorito. Sì, ancora toni accesi, questa mattina Matteo Renzi interviene su Repubblica.it, il mio incubo è la logica dell'intuto, dice il sindaco di Firenze, così il centro-sinistra ha perso la sua sfida nel 98 quando Vendola ha mandato a casa Prodi e D'Alema e D'Alema ha fatto l'inciucione con Cossiga e Mastella. Bersani cambia solo per mia pressione, prosegue Renzi, ha la vocazione minoritaria e per questo cerca l'accordo con Casini. Non è in grado di voltare pagina, è per il catenaccio, mentre io sono per il gioco a tutto campo. Risponde sull'alleanza a Renzi proprio Casini. Renzi è ossessionato da un'alleanza che nessuno gli ha chiesto. Voglio tranquillizzarlo, dice Casini, pensi ai problemi degli italiani. Si prende invece una pausa dalle primarie il segretario PD Pierluigi Bersani, che vuole intervenire sulla crisi della siderurgia a Piombino e dice: non mettiamo una vicenda per certi versi così drammatica nel calderone di altre vicende. Poi però sulle primarie ribadisce: le ho volute io, ma noi siamo un collettivo, noi siamo noi il centro-sinistra, loro sono il centrodestra. Per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie, torneremo a parlarne delle primarie del PD ancora alle 13.30 con Italia in controluce. E nel frattempo invece chi rinuncia alle primarie è proprio il centrodestra, il PDL. Manca solo la comunicazione ufficiale, per la quale bisognerà aspettare la prossima settimana, ma sembra ormai certo che le primarie del PDL non si faranno, una decisione che non è affatto piaciuta ad alcuni dei candidati in corsa, a partire da Giorgia Meloni, che chiede invece di rinviarle a gennaio. Quasi certamente però la consultazione popolare sarà sostituita da una convention nella quale verrebbe ufficializzata la rifondazione del partito, alla quale sta lavorando Silvio Berlusconi, ormai pronto ad annunciare la sua nuova discesa in campo. Invece di una nuova Forza Italia e del conseguente spacchettamento del PDL ipotizzato nei giorni scorsi, il cavaliere starebbe ora pensando di rifondare dall'interno il partito, cambiando nome e salvandone in buona parte la classe dirigente, arricchita però con innesti dalla società civile. Sarebbe prevista anche una separazione consensuale con gli ex AN. Una soluzione di compromesso, dunque, non facile da realizzare, grazie alla quale comunque Berlusconi sarebbe almeno riuscito a convincere Alfano a fare marcia indietro sulle primarie. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Di tutto questo abbiamo già parlato, ripartiamo ora da un appuntamento storico atteso per oggi, vale a dire il voto per la Palestina all'ONU, voto a cui tra l'altro l'Europa arriva divisa. E allora sentiamo cosa sta succedendo nelle ultime cruciali ore da Laura Bettini. Buongiorno, sì, è una giornata storica per i palestinesi, che stasera saranno le 21 in Italia, quindi in realtà sarà prima a New York. Comunque sarà una giornata storica per i palestinesi, che alle Nazioni Unite dovrebbero vedere approvata, secondo le previsioni, la risoluzione che prevede di elevare lo status della Palestina da entità osservatrice a stato osservatore non membro, nonostante le ferme opposizioni non solo di Israele ma anche degli Stati Uniti. La risoluzione infatti dovrebbe essere approvata, diciamo dovrebbe perché d'obbligo, essere approvata da almeno i due terzi dei 193 stati membri dell'Assemblea. Tra i favorevoli ci sono senz'altro la Russia, la Francia e la Spagna. L'Europa, come evidenziano appunto la presenza di Francia e Spagna nel gruppo del sì, non si presenterà per nulla compatta a questo appuntamento. Germania e Regno Unito si asterranno, forse lo farà anche l'Italia, si vedrà al momento del voto, ha detto infatti poche ore fa il ministro degli esteri Giulio Terzi. Il cambio di status da entità osservatrice, come dicevamo, stato osservatore non membro, è sostanziale però per il presidente palestinese Abu Mazen, che vede così accendersi la speranza che la Palestina sia riconosciuta un giorno come Stato, e che ha tra le implicazioni anche la possibilità per i palestinesi di accedere a diversi trattati e organizzazioni internazionali, tra cui la Corte Penale Internazionale, cui in passato hanno detto di volersi rivolgere contro Israele. La posizione di Israele ovviamente è negativa, la decisione dell'ONU non cambierà nulla sul terreno, ha affermato il premier Netanyahu, non farà avanzare la creazione di uno Stato palestinese e anzi al contrario lo allontanerà. Il solo modo di pervenire alla pace, ha detto ancora Netanyahu, è attraverso negoziati diretti senza precondizioni e non con una dichiarazione unilaterale dell'ONU. È tutto per ora. Grazie anche a Laura Bettini. Google Italia deve 96 milioni di euro di IVA non pagati al fisco italiano. Sono in corso verifiche della Guardia di Finanza su altri 240 milioni di redditi non dichiarati, ma questo potrebbe davvero non essere un caso isolato. Perché, cosa si ipotizza? Noi la domanda la giriamo a Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Buongiorno anche a te. Intanto buongiorno. La vicenda, come potete immaginare, è molto, molto complessa. E la stiamo tuttora verificando. Non solo Google nel mirino, ma tanti altri big della new economy, del mondo di internet. Era un po' nell'aria perché in tutta Europa c'è ormai questo assedio ai ricchi profitti che fanno queste società, non versando di fatto poi questi profitti in tasse nei stati in cui li producono, ma in paradisi fiscali o in paesi come nel caso di Google in Irlanda, dove la tassazione è molto bassa. Chiaramente c'è il tentativo da parte delle amministrazioni finanziarie dei singoli paesi di recuperare queste risorse, perché il concetto poi ridotto all'osso è molto semplice: nei paesi come l'Italia e in Francia, secondo appunto le amministrazioni finanziarie nazionali, non ci sarebbero semplicemente delle società che danno servizi a Google o a questi altri big, ma delle vere e proprie stabili organizzazioni, e quindi le tasse vanno pagate nel paese in cui il reddito viene prodotto. Grazie anche a Marco Bellinazzo. La cronaca ancora dall'Italia, che ci riporta la vicenda della piccola Yara, la ginnasta 12enne scomparsa a Brembate di Sopra in provincia di Bergamo e trovata morta un anno fa dopo 3 mesi. La piccola morì in meno di un'ora dall'uscita dalla palestra, rivelano oggi le nuove indagini. Yara avrebbe avuto giusto il tempo di uscire appunto dalla palestra comunale, essere prelevata in auto e arrivare nel campo dove ha trovato la morte. Queste le ultime dalle indagini. Le 13:22, siamo anche alla pagina dello sport e la notizia di oggi arriva dalla Formula 1. Carlo Genta. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Finale del mondiale di Formula 1 con coda gialla come la bandiera che avrebbe impedito a Vettel di realizzare il sorpasso che lo ha portato al titolo mondiale. La Ferrari ha chiesto con una lettera un chiarimento alla Federazione Internazionale dell'Automobilismo in merito appunto al sorpasso di Vettel su Vergne nel corso del quarto giro del Gran Premio del Brasile, che sarebbe avvenuto appunto in regime di bandiera gialla. Il video pubblicato dal sito del quotidiano spagnolo Marca sembra assolvere Sebastian Vettel. Le immagini sono state notevolmente rallentate e al momento dell'inizio del sorpasso pare che si intraveda una bandiera verde che lo legittimerebbe. Ultima parola di oggi è stata quella della FIA, secondo la quale non c'è nessun caso e il sorpasso di Sebastian Vettel è legittimo, lo ha detto il portavoce della Federazione Internazionale dell'Automobile. Dunque la vicenda dovrebbe chiudersi così. È tutto, linea di nuovo allo studio. Grazie allora Carlo Genta, tra pochissimo. Noi invece ci fermiamo qui, Matteo Comesi in regia, da Anna Migliorati che ha curato e condotto questa edizione di GR24. Ancora una buona giornata. Il giornale radio, vi ricordo, torna alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buona giornata da Adriana Fracchi e ben ritrovati per una nuova edizione di GR Spettacoli. È Milano, la città d'Italia dove si spende di più per spettacolo e cultura. Lo racconta l'indagine dell'Osservatorio dello Spettacolo della SIAE sui consumi degli italiani nel primo semestre 2012. Il cinema è il settore dove in generale il calo è più evidente. Sentiamo Marina Landi della divisione servizi della SIAE al microfono di Roberta Pellegatta. All'interno dell'attività teatrale in generale noi abbiamo la lirica, che è andata molto bene, come è andato molto bene rispetto all'anno precedente l'attività circo. Poi lo sport tiene sempre, di fronte peraltro a una riduzione dell'offerta. Le mostre sono andate bene in tutta Italia, soprattutto nelle grandi città. Portificio Milano, che ha avuto delle grandissime mostre, soprattutto fiere, che hanno richiamato una grandissima affluenza di pubblico. Quindi in linea assoluta noi possiamo dire che è vero che si sente la crisi, che c'è la crisi, che però la crisi del mondo dello spettacolo si sente sempre un pochettino meno rispetto alle altre crisi dei vari altri settori di consumo, perché la gente comunque ha bisogno di svagarsi. A quasi 40 anni dal film cult di Mel Brooks, Frankenstein Junior fa il suo ingresso in teatro nel nuovo musical, il primo in italiano, che la Compagnia dell'Arancia ha portato in prima nazionale al Brancaccio di Roma, in scena fino al 9 dicembre. Protagonista Gian Piero Ingrassia nei panni del personaggio che nel 74 fu di Gene Wilder. Sentiamolo al microfono di Elisabetta Fiorito. C'è un ritmo sicuramente molto più serrato. Poi ci sono le canzoni scritte appositamente da Mel Brooks per la versione teatrale di Frankenstein Junior, però insomma diciamo che il 90% è il film. C'è gente che dice le battute prima che noi le diciamo, questo ci fa molto piacere. Tutto è condito dalla sana ironia di Mel Brooks. Con 6.584.000 spettatori e uno share del 22,85%, è il confronto televisivo fra Pierluigi Bersani e Matteo Renzi, condotto su Rai 1 da Monica Maggioni, il programma più visto ieri in prima serata TV. Novità per Sky Go, il servizio che consente di fruire in mobilità del meglio della programmazione di Sky e che in soli 9 mesi è già stato attivato da oltre 1.100.000 abbonati. Nasce infatti la sezione On Demand, con oltre 600 titoli di cinema, serie TV, programmi per bambini e documentari visibili in qualsiasi momento su tablet, PC e Mac, fruibili anche a chi è abbonato da almeno un anno. Debuttano 3 nuovi canali, Sky Arte, Fox Live Life e Dea Kids, oltre ai 25 già disponibili. Inoltre, Sky Go, oltre che sull'iPhone, sbarca sui principali modelli di smartphone Samsung. Infine, il servizio viene esteso a tutti i clienti Sky, anche a quelli non in alta definizione. Nel menu delle uscite di oggi nelle sale cinematografiche, un paio di buoni titoli internazionali in mezzo a molto cinema italiano. Tra questi, un lavoro super indipendente. Michele Placido, interprete e produttore, lo ha definito il film che non hanno voluto i festival italiani. Applaudito alle proiezioni stampa, esce oggi Itacher, vietato agli italiani, opera seconda di Tony Trupia. L'ha intervistato Marta Cagnola. È stato uno stimolo di Michele Placido. Lui aveva sentito casualmente, veramente in modo molto casuale, la storia di un signore che da bambino era andato a cercare il papà, era emigrato a Milano partendo dalla Puglia. Mi ha raccontato questa storia, mi ha chiesto di rifletterci su. Abbiamo pensato che l'idea di l'emigrazione al concetto di paternità aveva un senso. E allora è stato facile. È tutto per questa edizione di GR Spettacoli. Un saluto da Adriana Fracchia.